America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, ieri vi ho parlato di elezioni, il 2016 sarà l'anno delle elezioni americane e devo dire che le notizie di oggi, di ieri, confermano come uno scenario in evoluzione sia sul fronte economico che su quello politico continuerà ad alimentare un dibattito molto serrato dal punto di vista della politica americana. Dal punto di vista economico abbiamo visto quanto l'America sia reattiva a quello che succede in Cina, perché la perdita dell'8,2% dello Shenzhen Composite a Shanghai ha avuto le sue ripercussioni a New York. Il Dow Jones ieri mattina perdeva il 2,70 e il 2,80% in apertura. Stiamo parlando della più forte perdita in apertura d'anno, perché ieri è stata la prima giornata di scambi del 2016, la più forte perdita dal 1932. Poi nel corso della giornata ha recuperato, abbiamo chiuso a circa meno 1,58%, che resta pur sempre la più forte perdita per la prima giornata di contrattazioni dell'anno dal 2008. Quali sono le altre notizie? Molta preoccupazione qui negli Stati Uniti per quello che sta capitando in Medio Oriente, la forte tensione fra Arabia Saudita e Iran. Di nuovo sul fronte economico, il Dipartimento per la Giustizia americano ha avviato un'azione legale contro la Volkswagen, questo per lo scandalo sulle emissioni truccate. Anche questa è una notizia molto importante, attivismo da parte del Dipartimento della Giustizia americana, e qui si sta parlando di danni nell'ordine di miliardi di dollari. Ma la notizia che domina, devo dire, su tutte e che farà grande turbolenza nel dibattito politico americano è la decisione di Barack Obama di introdurre un ordine esecutivo, un executive order, una sorta di decreto legge che scavalca il Congresso per imporre dei limiti alle vendite di armi. Ecco, di nuovo la decisione è maturata in tandem con il Dipartimento della Giustizia. Il Presidente degli Stati Uniti si è incontrato ieri con Loretta Lynch, segretario alla giustizia. Hanno esplorato gli ultimi cavilli legali che avrebbero potuto creare i problemi al Presidente, sono stati superati e dunque oggi l'annuncio. Sentiamo Barack Obama. I'm also confident that the recommendations that are being made by my team here are ones that are entirely consistent with the Second Amendment. Ecco, il presidente, sentite, risponde subito agli attacchi da parte dei repubblicani, secondo i quali c'è un abuso di potere da parte della Casa Bianca. E Obama dice: le decisioni sul controllo delle vendite di armi che mi appresto a prendere sono pienamente nell'ambito dei miei poteri e coerenti e in linea con il secondo emendamento della Costituzione, che sancisce la libertà di portare armi per i cittadini americani. Donald Trump, lo avete sentito, per primo ha parlato il candidato repubblicano, un candidato che devo dire sta crescendo in questa corsa verso le primarie dell'Iowa. In testa ai sondaggi resta Ted Cruz, ma Trump è in ottima posizione sia in Iowa che in New Hampshire, dove potrebbe addirittura vincere. E in questa sua dichiarazione alla CNN dice che l'azione di Obama non è solo un abuso di potere, ma è il primo passo che ci porterà alla proibizione per tutti di avere armi da fuoco. E questo mentre i terroristi ci attaccano per strada. Come presidente annullerò immediatamente quel provvedimento. Ecco, la maretta è forte, il Congresso repubblicano si sente scavalcato. Oggi ci sarà una dimostrazione imponente davanti alla Casa Bianca, proprio nel momento in cui Barack Obama annuncerà il suo ordine esecutivo. E come risponde il presidente americano? Risponde con una serie di iniziative mediatiche. La prima sarà giovedì con un dibattito stile town hall, quindi con un dibattito assembleare alla George Mason University, e poi la settimana prossima, il 12 gennaio, martedì 12 gennaio, occasione solenne storica, il suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, in cui ripeterà questa sua iniziativa. Ecco, posso già immaginare quali saranno le urla, i fischi nel Congresso controllato dai repubblicani, perché la polemica sull'utilizzo di questi decreti presidenziali, in America li chiamano executive orders, ma sono dei decreti, dei decreti legge, ha creato molta polemica qui negli Stati Uniti. Barack Obama è stato il presidente che ne ha usati di più, scavalcando di fatto ogni volta il congresso. E in questo caso, il tema è particolarmente delicato, non solo per quello che abbiamo sentito in campo repubblicano, ma perché ci sono una gran quantità di attivisti dalla parte opposta che invece chiedono controlli ancora più serrati. E se ci pensate, Barack Obama non è che sta chiedendo la luna, sta semplicemente chiedendo di fare dei piccoli controlli di background su coloro che acquistano le armi. Cioè, tu vai in negozio, vuoi comprare una pistola automatica o semiautomatica e ti viene chiesto se hai qualche cosa in fedina penale, e allora se c'è un problema di fedina penale magari si interviene e si fanno delle altre ricerche. Se ci sono stati dei problemi clinici, psicologici, delle fragilità psichiche per la persona che si sta apprestando a comprare le armi. Perché? Perché abbiamo visto una gran quantità di stragi nelle università americane, nelle scuole americane, in dei comizi, per mano di persone che, devo dire, sono in effetti instabili e non avrebbero mai dovuto avere accesso all'acquisto di armi. Ed è proprio su questo punto che batterà Barack Obama giovedì, vi dicevo, alla George Mason University, il giorno prima del quinto anniversario dell'attentato a Gabriel Gifford, deputato dell'Arizona, una giovane deputata promettente, brillante dell'Arizona, che fu colpita durante un attentato da parte di uno squilibrato. Sentiamo. And when Mark told you what happened, I cried. Ecco, qui sentite Gabriel Gifford che sta cercando di rieducare la sua voce, è rimasta semi paralizzata, un'intervista con Diane Sawyer, che è stata poi la prima intervista che l'ha lasciato dopo l'attentato, e qui racconta delle sue difficoltà, della riabilitazione, della musicoterapia che l'aiuta a riacquistare la parola, dei suoi ricordi del giorno dell'attentato, dell'aiuto che ha avuto dal marito Mark Kelly, che poi è un famoso astronauta. Ecco, per questo giovedì non sarà una giornata qualunque. La memoria degli americani di quel giorno, di quell'attentato, è ancora molto viva. La Gifford si salvò, come vi ho detto, rimase paralizzata in quell'attacco, però ci furono 6 morti, tra cui Christine Taylor Smith. Ecco, Christine Taylor Smith diventò un simbolo. Colpì veramente l'emotività degli americani, perché era una bimba di 9 anni che era andata a vedere la Gifford, che parlava perché voleva fare a sua volta la deputata da grande. Era bellissima, bravissima a scuola, ed era nata, pensate, l'11 settembre del 2001. Quindi era una bambina, una di quei bambini americani nati nel giorno del grande attacco all'America. E sarà questo giovedì, dunque, una giornata importante dal punto di vista emotivo, e le notizie di continue stragi che ci sono in America, pensate, una strage al giorno praticamente, alcune più gravi, alcune meno gravi, magari ci sono soltanto dei feriti, però gli attacchi ci sono mediamente una volta al giorno, 360-370 attacchi soltanto nel 2015. E dunque dovrebbe esserci, noi immagineremo, un impatto sull'opinione pubblica americana, e invece per ora questo impatto è solo parziale, anche se è provato che queste stragi, inclusa quella di San Bernardino in California, il primo attacco dell'estremismo islamico in America, ecco, questi attacchi avvengono proprio per la facilità con cui si può avere accesso ad armi pericolosissime, e sono poi armi che sono più da combattimento che per uso sportivo o da caccia. Però, come vi dicevo, una buona parte dell'opinione pubblica, mobilitata dalla lobby pro armi, cioè dalla NRA, dalla National Rifle Association, preferisce il diritto di armarsi liberamente rispetto al rischio di essere vittima di una strage. Può sembrare incredibile, ma l'iniziativa di Obama rende ancora più esplosivo il dibattito nazionale su una delle tematiche più delicate e polarizzanti nella cultura civica di questo paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Maria24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Oggi giornata storica, Barack Obama annuncerà per la prima volta un controllo sulla vendita delle armi negli Stati Uniti, e dunque di Stevie Wonder vi propongo My Love Is With You, una canzone che narra di una sparatoria in cui viene ucciso un uomo e che finisce proprio con la frase proibite le pistole. York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi auguro di nuovo un felice 2016 e vi do appuntamento a domani. Goodbye and get going!